Job 24. Bentrovati a Job 24. Il lavoro è il tema di questo appuntamento quotidiano di Radio 24 e oggi pensiamo alla formazione dei futuri specialisti del lavoro, perché è nato alla Statale di Milano il primo corso di laurea per formare esperti in pari opportunità. Un biennio magistrale che insegna a gestire le risorse umane nel segno dell'uguaglianza, a valorizzare le tante diversità che ormai ci sono in azienda o anche nel settore pubblico, a trasformarle in ricchezza. Un corso fortemente voluto da Bianca Beccalli, docente di sociologia del lavoro e delle pari opportunità nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano. L'argomento è piuttosto nuovo come argomento da trattare a livello universitario, perché complessivamente è stato piuttosto trascurato fino agli ultimi anni, anche se è un argomento nuovo e importante delle politiche pubbliche, elemento di attenzione delle politiche europee che insistono molto sulle pari opportunità, elemento direi nuovo nel mercato del lavoro perché c'è sempre più bisogno di esperti in pari opportunità. E pari opportunità vuol poi dire non soltanto le donne, non soltanto le pari opportunità di genere, ma anche, come si definisce adesso, le pari opportunità per tutti, cioè le diversità razziali, etniche, religiose. Ma come ci specializza in pari opportunità? Cosa studieranno questi ragazzi? Questi ragazzi studieranno una cosa piuttosto interdisciplinare, un po' di sociologia, un po' di storia, un po' di diritto, un po' di economia e un po' di filosofia. Sono tutti punti di vista convergenti sulle pari opportunità. Si tratta di diseguaglianze, si tratta di differenze o di diversità, come oggi si dice sempre di più. Le diversità sono uno svantaggio o possono essere un vantaggio? Beh, credo che questi specialisti riusciranno a trasformare queste diversità in risorse. Esatto, in ricchezza. Brava, l'ha detto giusta, la parola chiave è un po' quella. Come si possono trasformare le diversità in risorse? Allo stesso tempo, come si può stare attenti alle trappole delle diseguaglianze che si nascondono sotto le diversità? Perché uno spesso non solo è diverso, è anche un po' o inferiore o è trattato da inferiore, no? Questo accade molto chiaramente sotto il profilo etnico e razziale. Sotto il profilo di genere, magari un po' meno, perlomeno non è confessato che le donne le consideriamo inferiori. Però il discorso è un po' lo stesso, come si può valorizzare i talenti femminili che oggi poi sono accompagnati da una grossa professionalità che le giovani donne hanno acquisito. Il corso di laurea è di sicuro interesse, ma quali saranno poi concretamente gli sbocchi professionali? Ma io me li vedo occupati in diversi campi. Beh, intanto vedo che quelli che si occupano, che hanno interesse per studiare questi problemi, hanno un'occasione importante per studiarli che l'università fino ad ora non gli offriva. E alcuni di loro vorranno fare poi le ricerche, i dottorati di ricerca, gli approfondimenti di ricerca scientifica, eccetera. Altri che vogliono entrare più rapidamente nel mercato del lavoro troveranno chi ha bisogno di loro sia nelle aziende. Col diversity management oggi cercano molto chi entra nel diversity management, che è diventata quasi una pratica, una filosofia, una pratica aziendale. Cercheranno persone esperte, preparate per trattare con una manodopera sempre più variegata e con dei clienti sempre più diversi. Me li vedo anche nel pubblico impiego, dove c'è bisogno di mediazione culturale, di intervento nel campo dell'integrazione sociale, dell'assimilazione, quale assimilazione tenendo conto delle diversità, quale assimilazione dei nuovi, dei migranti per esempio, che non sia schiacciante ma che lasci fiorire le diversità nel rispetto della cittadinanza. Io mi aspetto che ci sia bisogno sempre più nei prossimi anni di operatori sociali che agiscono in questo campo. Grazie alla professoressa Bianca Beccalli. Per le informazioni su questo nuovissimo corso magistrale basta entrare nel sito della Facoltà di Scienze Politiche della Statale di Milano e da lì accedere al corso di laurea in Scienze del Lavoro. Il sito è www.scienzepolitiche.unimi.it e si parla ogni giorno a quest'ora delle novità e delle opportunità legate al mondo del lavoro. Se volete riascoltare, cliccate su Job 24 dopo essere entrati in www.radio24.it. Se volete scrivere, l'indirizzo è job24@radio24.it. A domani, un saluto da Roberta Pellegatta.